Greenpeace ha reso noto oggi un rapporto che era stato preparato dal NAFTA e tenuto nascosto dal governo statunitense dal giugno scorso. In particolare, questo rapporto raccomanda che tutte le importazioni di mais provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, quindi di origine transgenica, vengano trasformate in farina prima di essere distribuiti in Messico. Questo per evitare che questo mais venga a contaminare le sementi presenti nello Stato e quindi finisca poi in ambiente aperto a contaminare quello che è il centro di diversità del mais stesso. Diciamo che questo rapporto è particolarmente interessante non solo perché dà questa raccomandazione, ma anche perché appunto nel rapporto stesso viene sottolineata l'importanza di mantenere attivo il bando verso la coltivazione di OGM nel paese, che ricordiamo appunto è il centro di diversità del mais. La cosa in particolare che è il caso anche di sottolineare è che questo rapporto è particolarmente utile per quanto riguarda il ricorso fatto in sede WTO da Stati Uniti, Canada e Argentina per quanto riguarda la moratoria sugli OGM che era in vigore in Europa già dallo scorso 98. Questo diciamo che è un elemento in più che dovrebbe essere utilizzato dalla Commissione europea per sottolineare che ogni misura restrittiva per la salvaguardia non solo dell'alimentazione ma anche della coltivazione e quindi del nostro ambiente verso gli OGM deve essere, e comunque è più che legale, deve essere preso in considerazione in quanto i rischi sia dal punto di vista ambientale e gli interrogativi anche dal punto di vista della salute sono senz'altro in prima linea di fronte a noi.